Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero, il rotocalco domenicale che vi accompagna fino a mezzogiorno e che vi dà la possibilità alle 11.30 di partecipare al mistero in 24 minuti e quindi l'opportunità di portarsi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri digitali oppure cartacei, ammesso che riusciate a risolvere il mistero e che può avere come risposta o una delle tante notizie della settimana oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Come sempre vi faccio ascoltare il primo indizio che arriva adesso. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Non ha bisogno di presentazioni questa canzone. Il numero verde per prenotarvi da adesso 800 24 00 24, si gioca alle 11.30, vi ricordo, fino a 1000 euro in libri per voi. Ma veniamo all'argomento della giornata. Allora, è uscita un'indagine fatta grazie a Intel su chi frequenta i social network, dove si è scoperto che almeno la metà di chi è presente sui vari social network bleffa un po' nella costruzione del proprio profilo. Cioè, diciamo che sui social network si è un po' più belli e soprattutto le ragazze tendono a ritoccare le foto o comunque a pubblicare solo quelle dove sono venute particolarmente carine. E invece gli uomini tendono a bleffare sulla simpatia, sulle cose che fanno, insomma si fanno un pochino più fighi, no? Da un altro punto di vista, non soltanto estetico. Queste sono le due grandi differenze, però la cosa curiosa è che un po' si bleffa, non si è veramente se stessi quando ci si racconta sui social network. E di social network oggi parliamo, vediamo come ci stanno cambiando, perché pare che anche queste modifiche virtuali poi in qualche modo diventino anche reali, perché molti hanno dichiarato, grazie proprio a questa ricerca, che si ha la volontà, il desiderio di apparire un po' come ci si è descritti e quindi di avvicinarsi un po' alla descrizione che si è fatta su di sé, anche se appunto non corrisponde proprio al vero. Voi che cosa cambiate o cosa avete cambiato nel vostro profilo Facebook o quello di Twitter o di qualunque altro social network? Bleffate un po', e se bleffate dove lo fate? Oppure semplicemente dite il vero e nient'altro che il vero? Fatecelo sapere con i vostri messaggi, il numero è 349 238 66 66, oppure ovviamente nella nostra pagina Facebook che è Il riposo del guerriero. E a proposito di riposo, per chi è vacanza magari in questo momento, chi si sta distendendo al sole di qualche piscina, lago, mare che sia, o in montagna, ecco una canzone che era contenuta fra l'altro nel film The Social Network, ma che ricorda molto l'estate. The street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. $1. I said, you got to be joking, man. was a present from my mother. He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Cominciato così, insomma, con una canzone dei Ten CC, credo che tra l'altro sia anche uno dei più grandi successi che loro abbiano avuto. Ormai siamo alla fine degli anni 70 con Dread Rock Holiday e non so perché è stato scelto questo brano come colonna sonora del film The Social Network, però c'era, e siccome mi ricordava anche l'estate, l'ho scelto per cominciare la puntata di oggi. Luca Conti, buona domenica! Eccoci qua. Allora, Luca Conti, autore fra l'altro di un libro che è Twitter al 100%, comunicare, creare le azioni e divertirsi, ma anche fare business con Facebook. Allora, Conti, io direi di cominciare con una domanda: se il social network sta cambiando noi italiani che abbiamo cominciato forse più tardi degli altri a far parte della grande comunità virtuale. Non ce ne rendiamo conto perché ormai è diventata quotidianità per milioni di italiani. Dobbiamo considerare che solo su Facebook ci sono circa 22 milioni di persone che si collegano, italiani che si collegano almeno una volta al mese, e circa la metà si collega tutti i giorni. Quindi è stata un'abitudine, spesso e volentieri, soprattutto per la fascia 18-24 anni, che è quella che è al 100% su Facebook. Ormai si chiede l'amicizia su Facebook invece del numero di cellulare a una persona nuova che si incontra. Ecco, quindi insomma sta cambiando l'abitudine anche nell'approccio, a quanto pare. Allora Luca, noi ti sentiamo molto male, non so se perché stai usando un auricolare o dove sei, quindi adesso lancio la viabilità e cerchiamo di recuperare Luca Conti. Il riposo del guerriero. Intanto che cerchiamo di recuperare Luca Conti, che appunto dice ormai sono più di 20 milioni di italiani che ogni giorno si collegano a Facebook, chiacchierano, ormai pare anche che ragazzi fra i 18 e i 24 anni tendenzialmente al posto di chiedere il numero di telefono si fanno dare il profilo Facebook, e forse questo fa anche un po' cambiare il modo di relazionarsi. Credo che chiedere un numero di telefono sia un pochino più impegnativo, o anche dare il proprio numero di telefono sia un pochino più impegnativo, piuttosto che invece lasciare proprio nome di Facebook, perché poi uno può accettare o meno l'amicizia. Quindi questo rende un po' meno impavidi. Luca Conti, ci risiamo, vediamo se riusciamo a sentirti. Luca. Ecco, forse si è un po' meno coraggiosi, quindi, cioè ci si rimane un po' questa lastra, no? Tra il vero rapporto e ancora il virtuale. Visto che è più facile dare il proprio profilo Facebook o chiedere quello piuttosto che lasciare il numero di telefono o chiederlo. No, ma a mio avviso è cambiare il modo di vivere le relazioni per le persone che ormai lo usano da tanto tempo, sì, e hanno tanti amici rispetto alle proprie conoscenze su Facebook. Diventa un canale in più di comunicazione, oltre al telefono, agli SMS, all'email o l'incontro al bar alla fine giornata. Quindi è un modo, a mio avviso, per integrare il social network all'interno della propria vita. Non si tratta di vederlo come un qualcosa di diverso, ma un ulteriore modo per comunicare. Certo, è un modo in più, tra l'altro anche più economico, no? Da tanti punti di vista, assolutamente, economico di un messaggio. Il fatto che un po' si bleffi nel proprio profilo su internet, cosa fa scattare secondo te sul quando ci si incontra poi veramente o quando bisogna poi relazionarsi veramente? Questo è un aspetto interessante, perché ultimamente ho letto un po' di libri critici nei confronti del fenomeno del Web 2.0, dei social network, in cui si dice di fatto che i giovani, soprattutto adolescenti, hanno una fortissima pressione nel gestire la propria immagine online, per cui si creano quasi una seconda identità che è più o meno collegata alla prima, ma si cerca di apparire più belli, più interessanti e più simpatici per online e su Facebook in particolare, per cercare di avere più amici o per risultare più simpatici, quindi quasi con uno sdoppiamento di identità. Questo può avere degli effetti negativi, perché poi ovviamente nella vita di tutti i giorni le persone che incontriamo hanno una percezione che potrebbe essere diversa da quella che noi esprimiamo online nel momento in cui ci conoscono meglio. I sociologi stanno studiando questo fenomeno, forse è ancora troppo presto per dare dei giudizi definitivi. Anche però è vero, anche dalla ricerca dalla quale sono partito, pare anche che questo diciamo bleffare, no, sul proprio profilo porti anche alla volontà di migliorarsi nella realtà, cioè di avvicinarsi a quello che si è scritto di sé. E quindi potrebbe anche essere invece una chiave evolutiva al posto che, quindi migliorativa. Ecco. Assolutamente, assolutamente. È un'interpretazione che condivido anch'io. Sono iscritto a Facebook dal 2007, vivo un po' il mondo del Web 2.0 da tanti anni ormai, e ne ho una visione positiva. Ovviamente esistono i casi di abuso o di uso del web come surrogato per le relazioni, ma mi sento di dire che questi sono fenomeni marginali. La maggior parte delle persone, soprattutto giovani, li usa per vivere meglio, tutto sommato, cosa che ormai anche gli adulti hanno cominciato a fare e a capire. Quindi in questo senso può essere, anzi sicuramente è un modo per cercare di migliorarsi insieme agli altri, considerando la pressione di chi ci vede come uno stimolo positivo. Ecco, diciamo che poi adesso internet ormai è il luogo dove un po' ci si costruisce la propria reputazione, o la si può anche distruggere, bisogna stare molto attenti da questo punto di vista. Certo. E credo che sia molto aumentata la percentuale di aziende che cercano su internet appunto la reputazione di persone che magari stanno per assumere. Quindi quanto è importante oggi controllare le cose che si scrivono e quindi comunque pensare in lungo, perché sappiamo bene che qualunque notizia pubblicata in rete poi resta pubblicata per sempre, insomma, e voglio cancellarla. Ecco. Questo è un aspetto fondamentale, a mio avviso, che fa un po' che io riassumo in una parola, anche quando si discute di effetti positivi o negativi sulla privacy, che è consapevolezza. Nel momento in cui io so come funzionano gli strumenti, so come posso impostare le regole della privacy, so come far sì che i miei amici più stretti possano vedere una foto di un sabato sera un po' fuori le righe e il mio datore di lavoro o il motore di ricerca o il potenziale persona che può cercare informazioni su di me invece non le può vedere, nel momento in cui io sono padrone degli strumenti posso usarli consapevolmente con la regola non scritta, comunque, che vale sempre, che è un po' quella che io riassumo nell'espressione la regola della nonna, è che se una foto non la vorresti far vedere a tua nonna, probabilmente è meglio che non la pubblichi neanche su internet. Ecco, cioè vale la stessa regola, esatto. Poi tra l'altro entriamo un po' più nel taglio di questo discorso con un altro ospite. Luca, secondo te qual è il social network che nel futuro, almeno fra quelli che conosciamo in questo momento, resisterà ai prossimi giorni, cioè se Twitter per esempio comincerà anche in Italia ad avere più peso, oppure se invece resterà un pochino relegato rispetto a Facebook, o se Facebook magari perderà un po' del suo appeal. Come la vedi? È difficile perché la storia di Cristallo ancora non l'ho comprata, però battute a parte, mi sento di dire che Facebook oggi, nonostante le difficoltà che può aver avuto nella quotazione in borsa e aver perso un po' di appeal nei confronti di alcuni utenti forse un po' più evoluti che si sono già stancati, è quello destinato a rimanere dominante. Per varie ragioni. Una è che è l'unico fino adesso che è riuscito a arrivare a una massa critica di utenti quasi prossima al miliardo e con un livello di pervasività incredibile, cioè le persone ci stanno collegate tutti i giorni tantissimo tempo come non fanno su nessun altro sito. E oltre a questo c'è da dire che Facebook ha adesso anche le spalle ancora più larghe dal punto di vista finanziario rispetto agli altri potenziali concorrenti. Si è visto un paio di mesi fa quando Facebook ha comprato in un weekend l'applicazione per le foto attraverso il cellulare Instagram, pagandolo 1 miliardo senza tanto battere ciglio. Quindi questo mi fa dire che ogni potenziale concorrente che potesse affacciarsi sulla scena, Facebook può tentare di comprarlo, ostacolarlo, il senso che quindi può semplicemente crescere, insomma, e basta. Sì. Questo è difficile poi stancarsi di uno strumento che comunque evolve e automaticamente fa evolvere anche le possibilità di chi ne usufruisce, per cui è difficile. Esatto. Vedere, no, perché sai che qualche tempo fa si diceva comincia a interessare meno Facebook, mi ha stufato, ma è difficile che riesca a stufare nel vero senso della parola, basta saperlo usare. Ecco, magari lo si usa in modo un pochino più parsimonioso, però lo si usa, questo è il senso. Sì, Luca, d'accordo. Luca, io ti ringrazio, buona giornata, buona domenica, ciao Luca Conti. Vi ricordo il libro Twitter al 100%, comunicare, creare reazioni e divertirsi e anche fare business con Facebook. Arrivano i messaggi curiosi, un ascoltatore mi scrive: c'è una t-shirt con scritto sembravi meglio su Facebook. Ecco, perché in effetti questa è un po' la verità. E invece è arrivata un altro messaggio fra i tanti che dice: pochi dati, perché ho notato che poi alla mail arriva pubblicità, bollettini di pagamenti, insomma più dati si forniscono e più questi dati in qualche modo vengono utilizzati, anche se non dovrebbe essere così. Giuseppe Dezzani, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a tutti. Ecco, parliamo proprio di social generation, riconoscere e difendersi dalle minacce che popolano i social network, edito da Hepli, perché di questo parliamo, proprio anche in relazione al messaggio che ho appena letto. La nostra mail, che dovrebbe essere usata esclusivamente per entrare in un social network come nome utente, chiamiamolo così, poi immancabilmente, una volta iscritti a qualcosa, riceviamo delle mail che prima non ricevevamo affatto. Per cui cos'è meglio fare? Costruirsene una farlocca usata solo per quello? Giuseppe? Sì, uno degli accorgimenti principali che si deve tenere in rete è quello, ad esempio, di non utilizzare indirizzi di posta elettronica istituzionali, di lavoro o comunque indirizzi che utilizziamo per un'attività quotidiana per la gestione di profili in social network piuttosto che altre attività, visto che c'è la possibilità di ottenere degli indirizzi gratuitamente, il consiglio è quello di crearne uno apposito, anche per il discorso che facevate prima, che poi uscire dai social network, uscire dal profilo digitale è molto difficile, per cui avere un indirizzo di posta elettronica dedicato all'attività dei social network per ogni singolo social network utilizzato può essere poi un modo per poterlo anche chiudere o poterne rigenerare di nuovi per ripulire la propria identità digitale qualora arrivino cose non volute. Ecco, Giuseppe, tu parli nel tuo libro di diritto all'oblio, vuoi spiegarci un po' di cosa si tratta? Perché è un traslare, no? Un diritto verso quello che invece sono i social network. Certo, con il colonnello Piccini, che è il coautore del nostro libro, abbiamo fatto una serie di valutazioni di quello che è la possibilità di rimuovere informazioni, cioè un po' quello che accennavate prima con il collega precedente, la possibilità che inavvertitamente vengano pubblicate delle informazioni che non si vogliano poi nel tempo e riuscire in qualche modo a rimuoverlo, che è un'attività difficilissima perché ci si collega ai motori di ricerca, social network, blog, e alla fine riuscire a rimuovere un'informazione non più voluta diventa molto molto complesso, e allo stesso tempo la possibilità di chiudere un profilo completamente, cioè tutti sanno che rimuovere un profilo integralmente dai social network è pressoché impossibile, anche perché se l'informazione comunque non viene vista in rete rimane comunque di proprietà del gestore e in qualche modo potrebbe riemergere da qualche altra parte, su qualche altra forma di dato all'interno di un'altra rete. E questo è un po' il punto per cui i ragazzi soprattutto devono ragionare su ogni singola informazione che pubblicano, in modo che nel tempo non si trasformi in un boomerang che torni indietro. Voi fate accenno prima a un datore di lavoro che cerca informazioni in rete. Sì, la reputazione, no? Certo. Ma gli esempi su questo campo sono tantissimi, c'è addirittura gente che per affittare un alloggio, prima di affittarlo, chiede informazioni in rete sulla personalità del potenziale cliente, per cui la possibilità che un nostro profilo venga studiato tramite i social network, tramite la rete, è elevatissimo, perché ogni informazione è molto preziosa, ogni informazione è vitale nella gestione della nostra reputazione. Ecco, è vero che può essere usato anche al contrario, cioè in qualcuno che vuole mettere in cattiva luce qualcun altro scrivendo cose che non esistono. Ne parliamo fra poco, c'è informazioni pubblicitarie e poi torniamo a parlare con Giuseppe Dezzani. Il riposo del guerriero. Parliamo di social network oggi e dell'atteggiamento che si ha anche verso se stessi, verso il proprio profilo. Io vi sto chiedendo di inviare degli sms oppure sulla nostra pagina di Facebook Il Riposo del Guerriero il vostro atteggiamento nei confronti della descrizione che vi date sui social network, se così vi rendete più belli, più simpatici, se ritoccate le fotografie oppure siete esattamente quello che siete anche nel mondo virtuale. 349-238-6666. C'è Giuseppe Dezzani al telefono, che insieme a Mario Leone Piccinini hanno scritto Social Generation, riconoscere e difendersi dalle minacce che popolano i social network. Giuseppe, ti stavo chiedendo, se qualcuno volesse mettere in cattiva luce qualcun altro potrebbe cominciare a scriverne male. Come ci si fa a accorgere di una situazione di questo tipo? Ammesso che esistano situazioni così, ma immagino di sì. Sì, ne esistono tantissime, purtroppo sono due situazioni un po' parallele, cioè la sostituzione di identità oppure la diffamazione a mezzo internet, che tra l'altro sono reati di tipo penale, per cui bisogna essere anche consapevoli del fatto che a fronte di condotte di questo tipo in rete si rischia. Si può essere anche indagati e doverne parlare con un procuratore della Repubblica. La diffamazione mezzo internet è un reato diffusissimo, perché la pubblicazione di informazioni non veritiere su un conto di un soggetto, di una persona, e l'unica possibilità che ci sia per difendersi è quella di monitorare costantemente la propria identità digitale attraverso motori di ricerca. Ad esempio Google offre il famoso Google Alert, che permette di tenere sotto controllo costantemente nuove informazioni pubblicate in rete, e tempestivamente se ne può chiedere la rimozione attraverso gli opportuni canali qualora vengano pubblicate cose che non gradiamo sulla nostra identità reale o digitale. Sono diffusissimi perché è molto facile, io magari entro in un negozio, compro qualcosa, non mi piace, invece di protestare col negoziante esco e pubblico in rete l'informazione. Finché è un'informazione commerciale può anche starci, quando invece va un pochino oltre potrebbe diventare diffamatoria, per cui bisogna essere molto attenti. L'altro reato diffusissimo è proprio la sostituzione di identità, che è peggio ancora anche da un punto di vista penale, perché si arriva proprio a creare una falsa identità e pubblicare false informazioni su un certo soggetto, e ottengo veramente un'attività estremamente invasiva, perché pare quasi che il soggetto pubblichi di se stesso informazioni non vere, rendendole ancora più credibili per gli utenti della rete, perché immagino che sia il soggetto stesso averle pubblicate sul blog o sui social network. Sono tutte attività che purtroppo dobbiamo iniziare un po' a conviverci, dobbiamo cominciare ad abituarci a questa idea, per cui come noi monitoriamo la nostra vita reale, capiamo in base ai rapporti personali che abbiamo con le altre persone di cosa viene detto di noi, dobbiamo imparare a farlo anche in rete. Infatti le aziende sono sempre più sensibili alla digital reputation e sono sempre più famosi i casi di bonifica, cioè i casi in cui si tenta la rimozione, diciamo sempre si tenta e non si riesce perché non è assolutamente dato un risultato certo, cioè la possibilità di togliere le informazioni dalla rete è un'operazione molto molto complessa. Ecco, secondo te c'è consapevolezza di questi rischi? Se ne parla molto, devo dire, ma c'è veramente consapevolezza oppure mica così tanto? Cioè nel senso che l'atteggiamento è ma sì, in fondo poi è internet, quindi chi è che gli dà retta? Io ho avuto l'occasione di andare a insegnare in scuole superiori e fare dei convegni proprio per sensibilizzare i ragazzi nell'uso dei social network e ho notato da parte dei giovani una sensibilità molto più elevata di quanto non mi aspettassi. Si stanno perfettamente rendendo conto di avere una doppia identità, una digitale e una reale, e che tendono, spero, sempre più a far coincidere, per cui cominciano a valutare se stessi non soltanto per quello che sono nella realtà ma per quello che sono in rete. Forse per i nativi digitali, come li chiamiamo i ragazzi delle nuove generazioni, questo sarà un divario che noi magari un pochino più avanti con gli anni immaginiamo più complesso, invece per loro è assolutamente facente parte della loro vita quotidiana. Ecco, quindi un po' di attenzione insomma c'è, e poi ricordiamo sempre ai genitori di fare attenzione sulle frequentazioni, ma non per fare allarmismo, sì, ma perché comunque sia è veramente tutto, internet è veramente un libro aperto, per cui insomma fare un po' attenzione anche i genitori. La domanda più specifica che mi fanno sempre è: ma io non sono capace di usare i social network? La mia risposta tipica è che i ragazzi sono bravissimi a usarli, certo, bisogna accompagnarli, bisogna assolutamente solo essere vicini, sì, solo imparare con loro a scindere cosa è giusto e cosa è sbagliato. E devo dire che la cosa più interessante forse è farsi insegnare dai figli a usare i social network, perché è un ottimo sistema, appunto anche per reintegrarsi, no? E ritrovare il dialogo con i propri figli, che a volte avviene anche attraverso magari Facebook e non a tavola, perché succede anche questo. Ho degli amici che scoprono molte cose dei figli, ma banali, cose non complesse o non so, brutte o belle che siano, ma comunque fatti della vita quotidiana che scoprono solo attraverso la rete. Mi e poi a tavola non ne parlo. Scoprire cose sui figli degli amici, sì, e poi dover andare a raccontare: guarda che ho trovato su tuo figlio qua, la foto di tua figlia in quella situazione. Purtroppo per il lavoro che faccio mi capita quotidianamente. Ecco, quindi genitori, insomma, scrivetevi anche voi su social network e fatevi accettare come amici, mi raccomando, altrimenti create un profilo farlocco e cercate di fare in modo che i vostri figli vi accettino. Grazie Giuseppe Dezzani, Social Generation, riconoscere e difendersi dalle minacce che popolano i social network. E arrivano anche i vostri messaggi, anche senza barare, scrive Stefano. Facebook fa sembrare la nostra vita più interessante, forse anche a noi stessi. Beh, infatti molti si rendono conto della loro vita, dell'interessante della loro vita, proprio grazie a quello che riescono a pubblicare sul social network più famoso del mondo. Anche Silvia scrive proprio su Facebook: io pubblico foto belle, ma anche foto brutte e simpatiche, quindi l'importante è che siano simpatiche. In fondo si può nascondere, però quanto? In effetti diciamo che i profili farlocchi e le non verità emergono sempre, per cui bisogna stare attenti. Saro Trovato, buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, Saro Trovato, presidente di Comunicazione per Bene, ha costruito un movimento, è il primo movimento italiano di consumatori di media, e ha creato un sito nato da poco, si chiama libreriamo.it, è la prima comunità culturale formata da amanti della lettura, dico bene Saro? Più che altro è il tentativo di costruire il primo social book magazine, un magazine dedicato completamente alla promozione della lettura e dei libri e che ha l'atteggiamento e il comportamento di un vero e proprio social, oltre che di un semplice magazine. Ecco, quindi cosa succede? Libreriamo.it è il sito. Ovviamente vengono proposte le letture, ci saranno delle classifiche, saranno anche i lettori e i frequentatori del sito a dire la loro, immagino funzioni così. Sì, noi abbiamo cercato di mettere in relazione quello che è il mondo della editoria a 360 gradi da chi produce, da chi scrive, fino a chi distribuisce, in diretto collegamento con i lettori, i quali sono coinvolti anch'essi nella realizzazione di alcune recensioni. Ma il tentativo superiore è quello di non dare soltanto un messaggio verticale come accade semplicemente con i diversi magazine, ma abbiamo costruito delle community parallele su Facebook e su Twitter e con linguaggi che parlano una lingua diversa rispetto a quello del magazine, perché il social Facebook ha un linguaggio completamente diverso dal magazine tradizionale e il Twitter a sua volta ancora un altro linguaggio. Integrando le tre piattaforme cerchiamo di coinvolgere sempre più persone alla lettura. L'Italia, ahimè, è un paese che legge poco. Siamo nel fanalino di coda delle classifiche internazionali, soprattutto europee, per lettura, e questo diciamo era uno dei problemi per i quali noi volevamo dare il nostro supporto affinché attraverso il coinvolgimento alla lettura si possa migliorare anche la cultura di una nazione. Ecco, cosa succede per quanto riguarda i piccoli editori che fanno sempre molta fatica a farsi conoscere e a resistere, insomma, in questi... Ma diciamo che oggi la rete ha appiattito un po' questo tipo di problema, nel senso che c'è sempre più un atteggiamento diciamo più forte da parte dei piccoli editori, soprattutto degli editori digitali, i quali in Italia c'è un leggero ritardo, ma a livello internazionale ormai non c'è quasi più differenza, diciamo, fra gli uni e gli altri, ma diciamo attraverso il mezzo della rete sono riusciti sicuramente ad avere maggiori opportunità. L'unico problema è che oggi ancora la rete in Italia non rappresenta un valido strumento per le vendite, mentre negli Stati Uniti ad esempio la lettura dei libri digitali ha superato quello dei libri tradizionali e questo non li mette ancora nelle dovute garanzie di poter raggiungere obiettivi importanti come invece gli editori tradizionali. Quindi impariamo a leggere, anche a scegliere e magari anche a scegliere non necessariamente libri così molto famosi, ma libri che siano belli, al di là che siano conosciuti o meno. Grazie Saro Trovato e vi ricordo l'iniziativa e il sito che è www.libreriamo.it. Io volevo ricordare a questo punto un'altra iniziativa di una piccola casa editrice, si chiama Sagoma, il sito è www.sagoma.com, vi invito a visitare il sito, perché per sostenere la pubblicazione di un libro scritto da Michael Palin, che è uno dei Monty Python, dovete sapere Michael Palin ha girato il mondo per scrivere un viaggio ricco di sorprese, un viaggio molto curioso, un po' un viaggio alla Monty Python, quindi anche comico, e ha scritto appunto un libro particolarmente interessante e molto apprezzato nel resto del mondo, ma in Italia non è stato pubblicato. Sagoma vorrebbe pubblicarlo, però per una questione o l'altra riuscire a pubblicare questo volume costa 4.000 euro, e allora cerca dei sostenitori. Se volete sostenere questo progetto potete devolvere una certa cifra, anche soli 5 euro, alla costruzione di questo progetto per poter pubblicare appunto il libro di Michael Palin. La cosa curiosa è che se alla scadenza, che è per il 13 ottobre di quest'anno, si raggiungeranno i 4.000 euro, ok, allora quello che avete devoluto resta devoluto. Se invece i 4.000 euro non verranno raggiunti e quindi il progetto non si può fare, i vostri soldi non verranno perduti, nel senso che li recupererete. E quindi credo che sia una bella iniziativa. Andate sul sito di sagoma.com per leggere di più. È un'iniziativa che molti altri editori e moltissimi altri potranno imitare per tanti altri progetti. Marco Camisani, Calzolari, buona domenica. Buongiorno a tutti. Allora, con Marco Camisani Calzolari, che è imprenditore, professore di comunicazione aziendale e linguaggi digitali allo IULM di Milano, parliamo di quelli che sono i nostri seguaci, le persone che ci vogliono a tutti i costi, ovvero i famosi follower di Twitter, ma non soltanto quelli. Insomma, i visitatori che si possono comperare, a quanto pare, Marco. Ma sì, allora, c'è un mercato che è nato tempo fa, cioè quando le aziende hanno scoperto che Twitter perché no, anche Facebook poteva essere un luogo da cui, insomma, in cui fare marketing, e chiaramente si è creato tutto un contesto, un ambiente di agenzie che offrono, ci sono ovviamente anche quelle serie che quindi offrono delle attività di comunicazione digitale orientate a portare interesse a quell'azienda. Chiaramente purtroppo questo è un mondo che si misura in qualità dei contatti, no? Nel peso degli utenti, quindi alla fine in fondo, no? In quanto poi questi si possono trasformare in reali clienti, ma è un mercato che è più facile da misurare in numeri, e allora siccome le aziende hanno bisogno di numeri, malamente perché il concorrente ha, che ne so, ha più utenti, ha più followers di quanti ne hanno loro, beh, allora si cercano risultati molto concreti in termini di numeri, e di conseguenza sono nate agenzie, purtroppo, la maggior parte fortunatamente sono serie, ma ce ne sono alcune meno serie che in realtà li vendono, cioè li vendono o li comprano, cioè ovvero popolano questi profili di sostanzialmente di robot, cioè di utenti non reali, e facendosi ovviamente pagare come se fossero veri. Ecco, adesso andiamo un pochino più a fondo rispetto a questo, perché insomma molti siti che si fanno forza proprio dei numeri e di a quante persone piace una determinata cosa, magari poi scopriamo che invece a queste persone non piace affatto, perché quelle persone non esistono, per cui alla fine vengono anche dei dubbi forti su ciò che è veramente famoso e seguito in rete. Tra poco ne parliamo dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Con Marco Camisani Calzolari stiamo parlando della possibilità di comprare, diciamo così, i nostri seguaci su internet. Però Marco, volevo chiederti anche questo. Prendiamo ad esempio TripAdvisor, che è uno dei siti più citati anche dai nostri ascoltatori, dove i frequentatori della rete dicono se si sono trovati bene o male, esprimono quindi un giudizio su un hotel piuttosto che un ristorante. Anche in questo caso, io per esempio, io sono un ristorante, posso comprarmi dei seguaci, delle false persone che scrivono bene nel mio posto, o viceversa? Sì, ma soprattutto su TripAdvisor non è necessario essere stati poi realmente in quel posto, no? A differenza di Booking, per cui si sta creando un mondo in cui alla fine TripAdvisor no, è utilizzato a volte anche dai concorrenti per lasciare recensioni negative degli altri, certo. E guarda, un esempio anche di un amico, tra l'altro abbiamo scoperto chi scriveva male, vabbè, comunque, quindi succede. Ma questo alla fine non è altro che lo specchio della vita reale, no? Perché sì, prima dicevate, perdonatemi se correggo, ma dicevate mondo virtuale, un mondo reale, dietro ci sono le persone, no? I mondi virtuali sono quelli che si costruiscono, no, in ambienti inesistenti, invece qui l'ambiente è reale, dietro ci sono le persone. Ed è un po' come al bar, no? Bisogna gestire la propria reputazione, c'è chi parla male di te, c'è chi parla bene. La peggior cosa che puoi fare è non esserci quando si parla, ecco, male. Bisogna, sai, Oscar Wilde diceva, alle feste bisogna andare a arrivare sempre prima degli altri e poi andarsene per ultimi, altrimenti è sempre facile che si parli male di te, no? Quindi esatto, questo è un po' il segreto. Solo che è ma nella rete è impossibile essere dappertutto. Ma bisogna, vedi, non è proprio impossibile. Allora, a livello umano, personale, sì, nella vita privata è evidente che si gestisce poi la presenza in rete, così come si gestisce, se voglia di gestire, quella della propria vita reale. Quindi c'è chi è più sociale e c'è chi lo è meno. Mentre le aziende che spendono mucche di soldi nella gestione delle loro attività per vendere più prodotti, beh, invece per loro è quasi un dovere, e quindi oggi è da fare nel modo giusto. Siccome è un mondo nuovo che è appena, insomma, arrivato da qualche anno, che può essere frequentato, prima non esisteva, beh, bisogna ancora un pochino imparare. E quindi non fidiamoci dei numeri. Quindi se io leggo per esempio che su YouTube un video è stato visitato per 1 milione di volte, io posso avere qualche dubbio a questo punto, o no? Assolutamente, se vuoi dimmi quanti followers vuoi, conosco purtroppo gente che li vende. E che prezzi hanno, per curiosità? $20 per 50.000 followers, avete capito bene. Ah, beh, quindi potrei essere molto seguito su Twitter. Sì, potresti fare bella figura con gli amici. Senti, ma poi tutto questo funziona? Cioè è una spesa che produce? Oppure allora, dipende. C'è chi, allora, non servono a niente, sono robot apparentemente. In realtà c'è chi li usa proficuamente, sì, per fare l'effetto ristorante pieno. Ci sono due ristoranti a fianco, uno vuoto, uno pieno. Dove vai? Vai in quello pieno e poi si, certo, popola realmente di clienti. Sì, vero. Per cui, ecco, il problema non è tanto l'acquisto in generale, come se in qualche modo finalizzato a attività di marketing, no? Purché poi porti però risultati reali. Il vero problema che in qualche modo ho sollevato sono proprio le varie web agency, ripeto, non tutte così, ce ne sono tante oneste, ma le varie web agency che vendono, senza dirlo evidentemente, alle grandi aziende, che vedono i risultati e pensano che siano reali quando in realtà sono pieni di fake. Ecco, Marco, quando parli di società oneste, l'onestà in cosa consiste? Cioè, qual è la differenza, per capirci? Allora, diciamo che l'onestà in questo caso è non comprare evidentemente fake, ma di fare attività che generino reale, adesso uso parolacce in termini di marketing, reale engagement, no? Reale coinvolgimento da parte degli utenti, e che soprattutto siano in grado di portare risultati che poi si traducano in più vendite di prodotti e servizi, non solamente in più likers o in più utenti, perché non è sufficiente, non è necessario. I numeri, come dicevi prima, oggi valgono davvero poco. Per cui come distinguerle? Beh, ripeto, quelle in grado di portare poi, cioè di fare offerte che alla fine non abbiano come termine, luogo finale ultimo, il numero degli utenti, ma davvero, insomma, sia collegato ai risultati dell'azienda. La politica, secondo te, usa questi sistemi per aumentare i seguaci, almeno in rete? Allora, io sto preparando una ricerca che era presentata a Londra, insomma, a metà luglio, che coinvolgerà personaggi di tutto il mondo, e abbiamo già la preview, insomma, abbiamo già visto qualche risultato, per cui posso confermare che alcuni politici italiani e internazionali lo fanno. Ecco, quindi anche questa volta i numeri, attenzione, diciamo così. Noi come cittadini possiamo difenderci da questo, cioè cercare di capire, abbiamo uno strumento o non ce l'abbiamo affatto, dobbiamo solo andare allora, a intuito. Allora, ci sono sicuramente, innanzitutto quando tu vieni seguito da 50.000 robot, o ti hanno fatto uno scherzo e te li hanno comprati, come capita per le case di alcuni politici, ma insomma, o altrimenti, voglio dire, ad un cittadino normale questo non solo non succede, ma è assolutamente trasparente. Più che altro bisogna appunto fare attenzione a non farsi ingannare nel vedere il ristorante pieno, che poi è questo che dicono, dice, ma guarda quanti seguaci che ha Pinco Pallo, hai capito? Ecco, non bisogna più considerarlo un numero, insomma, come dire, valido fine a se stesso. L'importante è molto interessante, è quello che succede intorno, andate a leggere che cosa si dice, che cosa succede, insomma, ci vuole chiaramente, come quando ti presentano una nuova persona, no, tu sei all'inizio un po' così, poi anche ci sono quelli anche più aperti, voglio dire, però ti poni il problema e ti interroghi su chi è, da dove viene, insomma, e lo fai con tutte quelle tecniche che una volta si facevano, come dire, legate alle relazioni sociali fisiche, e oggi ci sono quelle in più. Ecco, andiamo più a fondo, questa è la chiave, al posto non limitiamoci ai like, cioè mi piace o non mi piace, oppure ti seguo o non ti seguo, ma cerchiamo di andare più a fondo per capire le cose come stanno veramente, e non basiamoci solo sui numeri. Meglio, è un modo per capire che, sai, che la tendenza ormai era quella un po' di essere superficiali, invece questo ci porta a esserlo meno e quindi a capire anche meglio la rete. Marco Camisani Calzolari, grazie e buona domenica. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Francesco Pira. Salve. Eccoci, sociologo della comunicazione, professore di comunicazione e relazioni pubbliche all'Università di Udine e autore anche di un libro si intitola La Net Comunicazione Politica, partiti, movimenti e cittadini elettori nell'era dei social network. E perché di questo parliamo, ormai la politica sta accogliendo a piene mani il social network anche in Italia, no Francesco? Sì, sì, assolutamente. Io volevo partire da un po' di cose che avete detto stamani, tutte molto interessanti. Intanto partiamo da una situazione sociale. Esistono i digitali nativi, che sono i giovani e convivono con le tecnologie, soprattutto con i social network, i videogames, e poi esistiamo noi, ormai ultra quarantenni, che siamo invece migranti digitali e cerchiamo di barcamenarci in questo mondo del web 2.0, quasi 3.0. E la politica non ha trovato ancora le chiavi di lettura in Italia. Il mio libro cerca di fare il punto sulla situazione e soprattutto cerca di capire che sono due elementi che non sono stati sfruttati. Il primo elemento è quello della cosiddetta cultura partecipativa, far partire dal basso delle istanze e dare delle risposte concrete in termini di progetti e programmi. Il secondo elemento è quello dell'autocomunicazione di massa, cioè ogni cittadino può postare video, commenti, interpretare un po' la sua realtà e la politica deve dare delle risposte, è quello che ha fatto tendenzialmente Barack Obama. Ecco, questo in Italia non sta avvenendo ed è questo il punto cruciale, perché la politica non riesce a dare contenuti ed ecco che vince quella che poi tecnicamente si chiama subpolitica e antipolitica. Ecco, ma addirittura ancora adesso è così, perché questo lo potevo capire fino a qualche anno fa, no? Quando era ancora un mistero avere una pagina internet addirittura. Oggi le cose dovrebbero essere un po' diverse, dovrebbe esserci un pochino più di consapevolezza, e invece a quanto pare no. Diciamo che dal punto di vista infrastrutturale i partiti che sono in Parlamento in qualche modo si stanno attrezzando, qualcuno sta addirittura facendo, come il PDL, le scuole digitali. Ecco, però è l'utilizzo che dici che ancora non è quello corretto. Ne parliamo dopo il GR delle 11. Il riposo del guerriero. Alle 11 e 8 minuti stiamo parlando di social network nel riposo del guerriero, in questo momento con Francesco Pira, sociologo della comunicazione, professore di comunicazione e relazioni pubbliche all'Università di Udine e autore anche di un libro che è la net comunicazione politica, partiti, movimenti e cittadini elettori nell'era dei social network. Francesco Pira, stavamo dicendo, i politici insomma stanno costruendo siti, sì, si fanno sentire, ma non usano bene il social network. Parliamo allora dell'autocomunicazione di massa, questo fenomeno, no? di scrivere e di postare, diciamo così, le proprie iniziative quotidiane. Ma sì, il dibattito è molto aperto su questa autocomunicazione di massa, soprattutto perché anche recenti testi americani ci dicono che, a parte diciamo tutta l'impostazione teorica di Manuel Castells, ci dicono che sostanzialmente il rischio che corriamo, il rischio più grosso, è che poi i motori di ricerca ci propinino quello che piace a loro e che noi abbiamo indicato prima come nostra preferenza. Quindi il rischio che corriamo quotidianamente che ci ritroviamo a scegliere delle cose che altri scelgono per noi e che potrebbero rientrare nelle nostre preferenze. Insomma, tutta questa libertà forse non c'è, quindi bisogna sapere usare i social network, bisogna cercare di essere sempre più digitali e sempre più vicini ai digitali nativi e meno migranti digitali. Ecco, non è così facile perché no, è proprio è la partenza che è diversa, per cui è un po' più complesso. Ecco, comunicare però così le cose che si stanno facendo, prendo per esempio Formigoni, in questo momento fra l'altro si parla molto di lui con i suoi filmati su YouTube dove faceva questo piuttosto che quell'altro, no? Non si rischia anche di avere un effetto un po' contrario e quindi di sembrare più non tanto politici, ecco, in quelle cose, non lo so. Ma io ho studiato tanto quello che ha fatto Obama. La comunicazione sui social network e sulla rete funziona se fa parte di una strategia complessiva molto curata. Se a un certo punto si sceglie di andare su internet e basta, probabilmente questo non funziona. Fatto eccezione è il fenomeno Grillo. Abbiamo visto anche una recente indagine del Corriere della Sera che ci dice che dove l'Italia è più digitalizzata, dove più informatizzata, ha avuto maggiore appeal il movimento di Beppe Grillo. Anche questi dati dovrebbero in qualche modo farci riflettere, così come le dichiarazioni di Grillo che dice: io comunque su internet intercetto 8 milioni di persone, se ognuno di queste parla con altre 5 arriviamo a 40 milioni, che ce ne frega delle radio, delle televisioni e dei giornali. Ecco Pira, prima di lasciarla una domanda, è proprio così, per esempio i giornali riportano spesso le twitterate, no? le cose scritte su Twitter senza poi andare a fondo nella notizia, magari semplicemente riportano la frase. Non può succedere che alla fine ci si fidi di quello che viene scritto e non si vada invece alla fonte delle notizie, quindi chiunque in qualche modo usi la rete per parlare di sé, del suo movimento politico e delle iniziative che pensa di fare, in realtà poi dica anche delle cose che vanno sostenute con dei fatti concreti. Chi li legge invece magari ha ragione, no? Ecco, però senza poi andare a vedere, veramente andare a fondo sulle cose. Non c'è un po' questo rischio di fidarsi ciecamente, ecco, di chi si segue? Ecco, questo è quello che ho sostenuto proprio in tempi non sospetti, cioè proprio questa possibilità di alimentare tutto l'aspetto demagogico in cui noi italiani siamo campioni. Bisogna secondo me stare molto attenti, ma c'è un altro passaggio importante, che se i giornalisti continueranno a riportare virgolettando le twittate oppure quanto si scrive su Facebook, salta completamente la mediazione giornalistica. La politica questo l'ha cominciato a capire e twitta tanto, anche i sindaci, anche i presidenti di provincia, ormai twittano tutti perché tanto sanno che poi c'è il giornalista collegato che riprende quello che dicono. Ecco, quindi abbiamo capito da dove dobbiamo ripartire, ecco, per scrivere in modo corretto. Grazie Francesco Pira, davvero grazie, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. La Netto Comunicazione Politica, partiti, movimenti e cittadini elettori nell'era dei social network, edito da Franco Angeli. Ciao dottoressa Dragotto. Buongiorno. La nostra professoressa Dragotto, glottologa, assolutamente attiva nei social network, con tuttopoli.com, con Facebook, ormai insomma tutti ti scrivono per conoscere la nostra lingua e forse anche migliorarla. Francesco, da dove partiamo con te oggi? Allora, partiamo da un'anticipazione di tutti i punti che vorrei toccare, ma dal momento che molto probabilmente non riuscirò a toccarli per ragioni di tempo, li anticipo così chi fosse interessato può andarli appunto a recuperare da tuttopoli.com. Lo dico anche perché parecchi mi hanno scritto a voce, mi hanno detto che la settimana scorsa ho anticipato due parole, non ho mai detto quale fosse in realtà la seconda parola collegata con la felicità e avente a che fare con il letame, erano curiosi, appunto era lieto, ne approfitto per dirlo, e per evitare questo anticipo l'argomento della nostra conversazione. I punti che vorrei toccare a proposito di vivere social sono quattro. Il primo è un appello, è il punto che mi sta più a cuore vista la rapidità con cui questo atteggiamento si sta diffondendo, ovvero non usare social al posto dell'intera espressione social network. La seconda cosa, in seconda battuta, è una questione molto più che linguistica, visto che riguarda la sostanza di relazioni umane, le conseguenze dovute all'assenza di possibilità intermedie tra amico e non amico. Nel caso di una rete come Facebook, infatti, l'inclusione nella rete di qualcuno equivale all'amicizia, intendendo però con amicizia una serie molteplice di possibilità. Perché noi come amico possiamo indicare tanto qualcuno di cui ignoriamo completamente l'identità, tanto qualcuno che è amico anche nella rete reale, che così nella vita reale, nelle reti della vita reale, che così diventa doppiamente amico. Quindi il rischio è quello che le relazioni interpersonali possano risultare schiacciate, e questo nel caso in cui il modello telematico finisca per proiettarsi anche nel modello reale. Poi un terzo punto, più propriamente linguistico, la creazione neologica, perché con l'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione e di tutto quello che ad essi è collegato, si è diffusa una vera e propria costellazione di termini sostantivi che però spesso, nel momento in cui si sono accreditati, hanno dato luogo a creazione di verbi da cui poi aggettivi a loro volta sostantivati, cioè mi riferisco a facebookare, twittare o ai loro participi, facebookato, twittato, ci twittiamo più tardi, oppure derivati, ne hai usato uno poco fa, tu twitterata, il tuo ospite ha detto twittata, quindi abbiamo addirittura la possibilità di due varianti per indicare lo stesso derivato, oppure emailare, detto anche emailare o semplicemente mailare, appare, taggare, linkare, uploadare e persino, fatemi dire, l'orribile, addare, ti addo per indicare, ti aggiungo alla lista dei miei contatti, bruttissimo. Oh, poi ultimo punto, ma tanto a questo non arriveremo, l'utilità di rifarsi alle modalità di costituzione di una rete di amici, ad esempio in Facebook, per poter spiegare, quindi mi riferisco ad un'utilità anche di tipo didattico, per poter spiegare in che modo le innovazioni linguistiche si diffondano all'interno di una comunità di parlanti. Che meraviglia, quindi, ecco, adesso poi sceglieremo due di questi argomenti, immagino, dopo gli aggiornamenti sul traffico, però voglio ricordare che su tuttopoli.com invece ci sarà la spiegazione di tutte e quattro, ecco, perché questo è il grande lavoro di post produzione che di solito Francesca Dragotto fa prima di andare al mare o mentre va al mare a godersi il suo unico giorno che dovrebbe essere di riposo, ma non è. A proposito di viaggi, gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Parliamo di social network, lo stiamo facendo con la nostra glottologa Francesca Dragotto e cominciamo proprio dalla parola social network, che va messa insieme, cioè social network, non si può parlare di social isolato. Eh Esatto, cominciamo con l'appello. La ragione per cui lo voglio fare è perché mi è capitato di leggere appunto social addirittura in comunicati stampa, quindi l'uso si sta diffondendo, se addirittura il parlante si sente libero di utilizzare il solo aggettivo anche in forme di comunicazione ufficiali. Quindi social, in inglese come in italiano, abbiamo sociale, è un aggettivo e non un sostantivo, per cui per favore non violentiamo la lingua usandolo come un sostantivo. Sempre più spesso capita infatti, come dicevo, di sentirlo utilizzato in forma sostantivata anche in contesti formali e scritti, o di sentir parlare genericamente di social, tanto per social network, tanto per social media. Per esempio, la comunicazione ai tempi dei social, il gradimento degli utenti rilevato attraverso i social e così via. Quindi va benissimo usare forme come vivere social, in cui la concessione all'anglismo ha un senso, perché veicola un plus valore semantico. Quindi diciamo che al tempo stesso ci rifacciamo tanto all'idea della socialità, tanto all'idea dell'uso di social network. Quindi va benissimo, ma in quel caso infatti non è, come dire, funziona proprio da modificatore, da aggettivo, da avverbio, non da sostantivo, perché è quello che non dobbiamo fare. Appunto, social per social network no, e che lo si pronunci all'americana con una O abbastanza simile a quella italiana, o che lo si pronunci all'inglese con una pronuncia di O che vira D, quindi qualcosa che suona quasi come social, resta che so o anche social integrato nella fonetica alla nostra lingua, nella lingua inglese può essere sia aggettivo che sostantivo. Però nel caso in cui venga utilizzato come aggettivo, ha a che fare con l'indicazione di sociale in senso letterale, ma anche con di gruppo, ma anche in unione a call o a visit per indicare una visita. Quindi social visit indica la visita presa nel suo complesso. Oppure ci sono modi di dire del tipo is a social drinker, ama bere in compagnia, letteralmente è un bevitore sociale. Non sa come muoversi in società, con un'altra espressione, he's got no social skills, quindi non ha abilità sociali. E infine utilizzato in riferimento ad animali ha il significato di gregario, per indicare quegli animali che vivono in branco, in gregge. Ora, si può utilizzare anche nell'inglese in maniera sostantivata, però quando è sostantivato rimanda all'idea della serata mondana, del party, e quindi viva Dio, rimanda ancora, almeno stando alla lessicografia ufficiale, dei rapporti che avvengono in presenza tra persone fatte di carne e ossa e non a distanza, almeno non ancora. È perciò, per concludere, una tendenza tutta interna alla nostra lingua, e spiegabile quindi come una sorta di atteggiamento smart, per utilizzare un altro termine che sta pervadendo le nostre conversazioni, o se volete un atteggiamento modaiolo, un atteggiamento che sta a cuore a molti parlanti, quella tendenza che porta alla soppressione del sostantivo e alla conseguente attribuzione del significato di tutta quanta l'espressione in una parola sola, per cui insomma fa figo dire come sei social oggi, bravissimo. Se accettarlo, ecco, fammi chiudere con un esempio, perché accettarlo equivarrebbe a dire il nervoso al posto di il sistema nervoso, oppure, proprio rifacendoci allo stesso esempio, le sociali al posto di le reti sociali. Sì. Quindi non funziona, e come è brutto in italiano, è brutto quando recuperiamo ed integriamo in italiano un'espressione che invece originariamente non era della nostra lingua. Visto che ci siamo, non mettiamoci la S, perché ricordiamoci che solito, i terismi, esattamente, quando le parole straniere, quando diventano di ampio uso nella nostra lingua, non vogliono la S. Noi abbiamo i famosi articoli, no, che ci dicono se stiamo parlando al singolare o al plurale. La S alla fine non serve assolutamente. Allora, questo era il primo dei quattro, ti lascio raccontare velocemente il secondo, cioè il concetto di amico. Questo è più un pericolo soprattutto per le nuove generazioni, che filtrano le proprie abilità relazionali attraverso l'uso dei social network, perché mentre per un adulto, per un nativo non digitale, si tratta di un'acquisizione successiva, per un attuale adolescente il passaggio dell'amicizia attraverso la rete è di fatto la normalità. Quindi il rischio è che le relazioni umane si appiattiscano qualora un modello che prevede solo la possibilità di inclusione o di esclusione, non la possibilità di inclusione a vari gradi come avviene nella vita normale, riesca a permeare tutte quante le nostre, appunto, le nostre forme di relazione. Quindi anche qui è un invito a ricordarci che esistono due vite, la vita reale e la vita digitale. Io non ho assolutamente contro nulla la vita digitale, tant'è che uso tantissimo la rete e tutto quello che mette a disposizione, perché riconosco che la forza, ad esempio, di un mezzo come Facebook, che in sé non mi piace, perché mi sembra che vada un po' troppo a ledere la propria riservatezza, perché è vero che ognuno di noi pubblica soltanto quello che vuole, però si viene anche involontariamente pubblicati dagli altri e non si riesce a stare dietro a quello che gli altri pubblicano su di noi, soprattutto le fotografie, le notizie di seconda mano, per cui diciamo che mi sono arresa alla potenza del mezzo, cerco di carpirne gli aspetti positivi, e secondo me neppure tu sei amante fino in fondo. No, beh, si vede da conto pubblico poco, insomma, questa, appunto, si intuisce anche dall'uso che fai del tuo profilo Facebook. Però ecco, visto che è un dato di fatto e sarebbe assolutamente anacronistico e controproduttivo portare avanti una battaglia contro l'uso di questo mezzo, cerchiamo di capire quali sono le potenzialità, ad esempio appunto a livello didattico. Faccio, al di là del punto che cercavo di enunciare prima, la possibilità di spiegare la diffusione del mutamento, ci lamentiamo che i ragazzi delle scuole superiori non sanno scrivere, benissimo, diamogli un testo e chiediamogli di trasformarlo in una twittata, quindi di ridurlo in 140 caratteri, cosa che li obbligherà sicuramente a ragionare. Allora ecco, non vituperiamo, al tempo stesso non diventiamo completamente proni, usiamo ancora una volta il mezzo con un po' di criterio, chiaro, con un po' di ragione. Certo. E poi da questa cosa, ma ne discuteremo un'altra volta, ne abbiamo già parlato, a quel punto mi concedi di scrivere qualunque QLQU perché con la K eccetera, così riesco a stare nei 140 caratteri, o non me lo concede, professoressa? Dipende ma ne parleremo. Grazie. Grazie Francesca Dragotto. Grazie, ciao, a voi, ciao, buon domenica. Viaggio a te, ti ringrazio, vi ricordo tuttopoli.com per andare a seguire il seguito delle cose che ci avrebbe raccontato Francesca. In onda Marco Montemagno, imprenditore del web. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Allora, io ti chiedo invece, visto che tu conosci il web molto bene, sei stato uno dei primissimi in Italia, forse il primo, a parlare con la politica e a dire usate i social network in tempi proprio non sospetti, no? Per cui sei il primo che ci ha davvero creduto da questo punto di vista, almeno nel nostro paese. Ti chiedo, dove andremo? Come si trasformeranno? Se hai già qualche intuizione, o guardando cosa succede nel resto del mondo, come si trasformeranno i social network? Ma Stefano, io direi che anzitutto la situazione è molto migliorata rispetto al passato, no? Che è già una cosa importante. E nel 2004 mi ricordo che a un convegno dove si parlava di social network, e io dicevo, ecco, impatteranno la politica, ad esempio, in prima fila uno scoppiò a ridere, cioè questo era il livello, no, della discussione. Oggi direi che la situazione è molto migliorata. La soluzione secondo me più interessante è che i social network oggi sono un posto dove le persone vanno, e la massa, diciamo, conosce Facebook, mentre invece gli addetti ai lavori si sono già spostati, ad esempio, su Google+. La cosa carina è che non saranno più un posto dove andremo, ma sarà semplicemente una funzionalità di qualunque tipo di applicazione che usiamo, quindi è qualcosa che semplicemente sarà dentro a qualunque tipo di attività che facciamo. In fondo oggi lo vediamo già, no? Nel senso, vado in giro, cerco un ristorante, vedo la lista dei ristoranti dove sono stati i miei amici, le vacanze, i posti dove sono stati i miei contatti, quindi in realtà sarà sempre di più quella che in inglese si dice una commodity, qualcosa integrato nella vita di tutti i giorni e non più un posto dove andare. Ecco, Twitter secondo te avrà sempre più seguaci? Ma Twitter è straordinario, soprattutto ricordiamoci che dietro a Twitter c'è stato Evan Williams e Jack Dorsey, no? Quindi due dei grandi nomi del web. È sempre interessante andare a vedere, no? chi lancia queste iniziative, perché ti dà poi la dimensione di quanto possono esplodere. Quindi Twitter è assolutamente un posto in cui stare, e ha però una funzione sempre più legata alle notizie e all'attualità. Ti faccio un esempio, la ricerca di Twitter è una delle cose più sottovalutate in assoluto, sì. Perché se tu sei un'azienda, una persona, un programma radiofonico, tu in tempo reale vedi la gente cosa pensa e puoi reagire, puoi acquisire nuovi clienti, puoi fare delle proposte, quindi è un posto assolutamente super. Ecco, c'è qualcosa che invece vedi superato? Nel futuro sarà superato, cioè non si userà più? O meno? Di cose superate ce n'è tante. Beh, Facebook mi sembra già superato, a prescindere dall'IPO da 100 miliardi, è buon per loro. Però diciamo, sentivo prima il tuo precedente ospite, molto interessante, però ad esempio... già Facebook, no, Google Plus ha già superato Facebook sul fatto che tu puoi limitare ad alcune persone alcuni contenuti e ad altre ne fai vedere degli altri, quindi hai una, diciamo, granularità, come si usa dire, no? Puoi limitare e diversificare i tuoi livelli di contatti e di amicizie. Questo è un tema. L'altra cosa ovviamente superata sono i PC, quindi siamo nell'era dei post PC e quindi è tutto su telefonini, tablet, quindi già oggi si fa internet e si sviluppano tutti i siti, le applicazioni, prima per i cellulari e poi per quelli che sono i PC, che vanno un po' a sparire. Ecco, quindi insomma vedremo se poi la tua sfera, di solito la tua sfera vede sempre giusto, per cui adesso parliamo. È un po' rannuvolata adesso. No, credo che sì, che tu possa vedere bene. E comunque il futuro, insomma, è a social network, come vuole che si dica Francesca Dragotto. Un'ultima cosa al volo in 10 secondi. Come no? Il futuro, secondo me, già oggi consigli un libro. Purtroppo non prendo percentuali sui libri consigliati, ma 100 dollar startup, la startup da $100, chiunque oggi può lanciare un'iniziativa con meno di $100 e cambiare la sua vita, mi sembra una cosa molto presente e molto interessante per il futuro di tutti. Potrebbe essere anche una puntata del Riposo del Guerriero. Grazie Marco Montemagno, ciao Stefano, buona domenica, ciao. Io non riesco a sentire Andrea Pucci, non abbiamo tempo, però voglio comunque comunicarvi questa possibilità. Andate sul sito multiplayer.it, multiplayer sono edizioni che hanno a che fare con il mondo dei videogiochi, e se volete scrivere un romanzo che abbia a che fare con la realtà e con il videogioco e con i giochi in generale, potete partecipare a questa iniziativa, si chiama Realtà in Gioco, e i romanzi più interessanti verranno pubblicati, per cui se amate scrivere questo genere di romanzi potete farlo e avere quindi la possibilità poi di vedere il vostro racconto pubblicato. Per tutte le informazioni multiplayer.it. Dal 22 giugno scoprite al cinema la commedia gastronomica dell'anno, Chef. Vi presenta Il Gastronauta. Ciao Davide Paolini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, quanto, buona domenica. Quanto sei legato ai social network tu? Ma abbastanza, non in maniera ossessiva, ma diciamo sufficiente, Facebook, Twitter, insomma. Le utilizzo non come il pane quotidiano, ma le utilizzo. Ecco, quando vai a scopri ristoranti nuovi, posti dove andare appunto a mangiare o anche a dormire, vai poi a vedere le recensioni su internet o proprio non ti interessa? No, non mi interessano. Non mi interessano perché non voglio essere influenzato assolutamente sul mio giudizio. Tutto al più ci vado molte volte dopo aver scritto, averlo scritto sul sito o averlo detto alla radio oppure averlo scritto sul Sole 24 Ore. Ma mai prima. No, infatti io dicevo appunto anche dopo, per vedere quanto sono somiglianti, sì, a quello che pensi, oppure sì, ecco, no. Ti dirò che qualche volta ci vado, non sempre, quando mi sento, come posso dire, abbastanza tranquillo su un giudizio negativo o positivo, sì, non vado. Delle volte magari scrivo e poi ho qualche dubbio, magari mi torna in mente qualcosa di particolare e allora vado a vedere, però purtroppo ormai anche quando vado a vedere ho visto, non posso più farci niente perché il mio giudizio pubblico è già stato espresso. Certo che io molte volte torno indietro al mio giudizio, un paio di volte diciamo ho scritto delle recensioni ma senza essere influenzato da altri, una seconda o terza volta che sono tornato ho scritto ahimè mi sono sbagliato, o in positivo o in negativo. Credo che questo sia il miglior modo. Io lo sai, l'ho già detto molte volte, il mio occhiello sul Sole 24 Ore a me mi piace. E quindi è quello il mio slogan. Certo, cioè, deve restare personale. Devo restare personale, non ho la presunzione né la prosopopea di essere un critico infallibile né di essere soprattutto critico, ma semplicemente gastronauta. E allora vado così per la mia strada. Se invece qualche posto che hai scoperto, qualche vino che hai degustato e appunto hai scoperto vagando per la rete, guardando, leggendo, e dici ma questa cosa non la conoscevo e sei andato poi a vederla, oppure si sei sempre basato su quello che ti hanno raccontato? Quindi no, ora non ricordo un particolare, ma sicuramente può essere successo che abbia avuto. Devo dire che La mia rete è molto alimentata da chi mi segue, da coloro che mi seguono, e sono sia gli ascoltatori che i lettori del Sole, e devo dire che moltissime informazioni io le ricevo da chi mi segue, e diciamo che molte volte sono fantastiche perché mi hanno fatto scoprire tante cose, altre volte ho preso delle ciofeche infallibili, nel senso che ricordo una segnalazione di un ristorante in Brianza dove mi diceva che era perfettamente nello stile mio della scoperta dei piatti molto particolari, dei prodotti. Sono andato e credo di aver preso una delle più grandi ciofeche della mia vita. Però ti quindi, sei fidato. Quindi ti dico, non avevo scritto niente ancora, ero andato semplicemente per controllare. Ma anche ieri, mi sembra, ho ricevuto in trasmissione due segnalazioni di due ristoranti sul pesce povero, il pesce dimenticato di cui sì. Ho chiamato. Non solo io, le hanno ricevute anche tutti coloro che erano in ascolto. Certo. E, infatti ho chiesto, ma sei socio o sei amico del proprietario? Ho chiesto subito e questi uno, no, per carità. Però insomma, beh, bisogna sempre chiedere di due ristoranti, tra cui uno che sapevo che abbastanza non ci sono mai stato, che è il pesce, il povero pesce, guarda, mi viene anche in mente, di Viareggio, e io ho scritto, avevo parlato di pesce povero, un radioascoltatore ha detto, mi ha sollecitato segnalato, questo nome sì. a Viareggio, e devo dire che so che è un ottimo locale, quindi ne ho abbastanza da verificare, perché è evidente che devo verificare, e specialmente il panettone, ecco il panettone che ormai è diventato forse una mia fobia, dice qualcuno, e devo dire che sul panettone ricevo continuamente delle indicazioni, soprattutto dai pasticceri, e allora io dico bene, mi dicono che hanno un panettone straordinario, dico siccome non posso venire, mandatemi in mezzo panettone che poi certo. Vi dirò com'è, e quindi devo dire che ogni volta che ho ricevuto queste cose, negli ultimi tempi, sul panettone non ce n'è stato mai uno sbagliato, devo dire veramente molto eccellente. Ecco, ma ecco, io credo che mano a mano che si va avanti con il tempo e con l'utilizzo corretto, alla fine le segnalazioni saranno più rispondenti al vero. Credo che la rete in questo senso si userà sempre in modo migliore, ecco, quindi non tanto per segnalare, ma per segnalare davvero qualcosa che possa essere gradito o comunque considerato. Io ricordo a questo punto il tuo profilo, sì, come no, certo. Posso dire una cosa solo? Devi. Non mi fido di TripAdvisor, lo dico voce alta. Te lo stavo per chiedere, sai. Ecco. A voce altissima, non lo guardo mai, mi rifiuto, l'ho guardato già troppe volte e ho visto già troppe volte cosa c'è dentro. C'è della porcheria. Te lo stavo per chiedere e comunque hai risposto. Andate su Facebook se volete parlare in qualche modo con Davide Polini e segnalgli qualcosa, il profilo è appunto Il Gastronauta. Ecco, tu hai dato il profilo, mandatemi segnalazioni di gelaterie, in questo periodo voglio segnalazioni di gelaterie. Te ne darò una anch'io, presto, grazie, ciao. Ciao, presto. Ciao Davide, grazie. Tra poco giochiamo, 800 24 00 24, il mistero in 24 minuti per voi, fino a 1000 euro da spendere in libri digitali o cartacei. Un mistero in 24 minuti. Fino a 1000 euro da spendere in libri digitali o cartacei, ammesso che riusciate a risolvere il mistero in 24 minuti. La risposta può essere una delle notizie della settimana oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Il numero per partecipare 800 24 00 24 ed ecco il primo indizio. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato. Su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità ti fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace e quell'altra no. La verità ti fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui. Quando era ancora Casco d'Oro, Caterina Caselli, nessuno mi può giudicare, il primo indizio per Cristina da Rimini. Ciao Cristina. Ciao, io vi chiamo da sotto l'ombrellone, avevo prenotato prima di partire a casa, adesso sono qua e mi avete chiamato. Che meraviglia. Sono molto contenta. Oh, stai bella fresca tra poco nell'acqua. Sì, sì, sì. Allora Cristina, cosa vogliamo fare? Siamo a 1.000 euro, puoi dare la tua risposta o ascoltare io un altro indizio? La mia risposta. Sì. Io do subito la mia risposta. Penso che sia il concerto che al quale in maniera straordinaria parteciperà anche Caterina Caselli per i Tremotati, che si farà in Emilia, e penso che sia una notizia. Penso questo. E lo è. Grazie Cristina, anche se non posso dirti se è la risposta anche giusta. Buona giornata, goditela. Ciao. Giuseppe da Milano. Ciao Stefano. Ciao Giuseppe, eccoci qua. Come sai, la risposta esatta la scopriremo al 24esimo minuto. Sì, io invece sono nel caldo di Milano, invece di essere al mare. C'è sempre l'idroscalo, oppure le piscine comunali. Allora. Certo, certo. Senti, io ho pensato a un personaggio. Sì. Ho pensato a Balotelli e alla sua sparata che ha fatto l'altro ieri sul fatto che lui non è un bambino, che lui non è tutt'uno con la Nutella, e quindi insomma quando lui viene messo in discussione si irrita sempre di più, oppure fa certe sceneggiate che insomma che ormai conosciamo, insomma, quindi tu dici nessuno mi può giudicare e questo sì. È grazie Zaccaria. Giuseppe, scusami, buona domenica. Ciao Giuseppe, grazie. Zaccaria arriva adesso, anche lui da Milano. Buongiorno signor Stefano. Buongiorno a te. Che cosa facciamo? Io sentendo il primo indizio sì. Ho connesso la mia mente soltanto su giudizi, tribunali e robe varie. Allora, siccome ci sono tante notizie da tribunale questi ultimi giorni, vorrei sentire un altro indizio. E allora scendiamo a 500 euro. Scendiamo pure. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo. Così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza. Guarda Zaccaria, tu non sai il piacere che ho io personale nell'ascoltare questo grande successo di Adriano Celentano cantato da lui, perché purtroppo queste sono delle canzoni più cantate male nei karaoke, più clonate, esatto, e l'ho sentita talmente cantata spessissimo male, finalmente la sento come si deve. Allora Zaccaria, mi ha fatto spiazzare proprio, ecco, però dico lo stesso la mia idea sì. Iniziale. Allora. Io ho pensato all'assassino della Norvegia, Kirvik, come si chiamava, Kirvik, che è stato, gli hanno chiesto la facoltà di non intendere, di non volere, che passerà, non sarà condannato alla galera, ma sì, vedremo cosa accadrà. Breivik, comunque, grazie Zaccaria, buona domenica. Buona giornata. Buona ciao, giornata. Grazie. Gli aggiornamenti sul traffico e poi torniamo 800 24 0024. Un mistero in 24 minuti. Stefano, dalla provincia di Reggio Emilia, buona domenica. Buongiorno, volevo dirvi che rischio la figuraccia perché io ho sentito il primo indizio che era nessuno mi può giudicare. Sì. Ho sentito parte della trasmissione, ma poi sono entrato in ospedale, mi hanno chiamato adesso, quindi rischio di dire una cosa già detta magari. Ascoltami, Stefano, aspetta, hai sentito anche il secondo indizio o non l'hai ascoltato? Il secondo indizio l'ho sentito, ma ero rimasto bloccato dal primo indizio che mi era venuta queste cose qua così lampante, sin troppo semplice, e mi apprestavo a dirglielo. Non credo che il secondo c'entri tanto col primo, però volevo fare questo tentativo. Allora ci proviamo Stefano. Ci proviamo, io dicevo Roberto Formigoni, forse l'hanno già detto. Non l'hanno detto, assolutamente no. Grazie Stefano, buona domenica. Niente, ecco. E in bocca al lupo per quello che sta accadendo, visto che sto in un ospedale, non so per cosa o per chi. Alessandro da Bologna. Allora, secondo me è la notizia della settimana in cui Celentano doveva fare un concerto in diretta sulla Rai e gliel'hanno rifiutato. Lui è nato da Mediaset e in 48 ore hanno raggiunto un accordo per la trasmissione in diretta del suo ultimo concerto live. Hai visto che velocità? Grazie Alessandro, ciao. Grazie. Sarebbero 500 euro per te. Antonio da Ravenna. Sì, ciao. Ciao Antonio. Purtroppo l'ascoltatore di prima mi ha anticipato, anch'io pensavo Roberto Formigoni. Ma cosa vogliamo fare? Ascoltare un terzo indizio? Non lo so. Io la butto lì. Possiamo provare. Magari ti viene in mente qualcos'altro. Sono 300 euro col terzo indizio. Occhi neri, assoluti e sinceri, occhi amati e sognati. Occhi desiderati, la bellezza è cattiva, la mia strada non ci arriva e il mio amore non sa perché. Occhi neri e distanti, calamita e diamanti, occhi belli e impazienti, due sparvieri vibranti. Ti lasciano muto, tramortito, seduto, e non riesci a capire perché. Occhi senza ritorno, se ne va un altro giorno. Occhi senza parole, io li guardo passare. Finirà questa neve, questo inverno sarà breve. Magari verrà. Eccoci qua Antonio, questo è il terzo indizio, il Fiorella Mannoia. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Che canta Occhi Neri? Beh, effettivamente è un nuovo indizio che mi spiazza ulteriormente. Proviamo a cambiare, magari rimanendo nell'ambito milanese dei processi di Milano. Pensavo a questo punto magari Silvio Berlusconi, visto che in settimana si ricordo, ma della Minetti, mi scusi. Sì. Visto che in settimana c'è stato un ritorno di fiamma delle notizie riguardanti ormai l'annosa questione Berlusconi, Minetti e Ho notato. Ho notato. Grazie Antonio, buona domenica. Ciao, grazie. Giampiero dalla provincia di Grosseto. Pronto? Giampiero. Giampiero dalla provincia di Imperia. Vabbè, mi ha scritto Grosseto e va bene, facciamo Imperia che va bene lo stesso. Allora. Giampiero, allora, eccoci. Che cosa vuoi fare? Abbiamo tre indizi, non so se li vuoi riascoltare, vuoi un quarto indizio? No, io avevo pensato due possibilità. Una l'hanno già detta, che è quella di Formigoni, che non si lascia giudicare. E quindi direi la prima possibilità che avevo pensato è di Caterina Caselli, che dopo 40 anni ritorna di nuovo. L'hanno già detto. Ah, già detto? Ah sì, è stata la prima risposta. Guarda, Cristina è arrivata, sì. Sì. Allora, vi siete persi un indizio che è veramente un indizio chiave, che è il secondo indizio. Non mi dice niente, secondo indizio. Ma ti ricordi come si intitola la canzone di Celentano? Ascoltiamo, no. Ascoltiamo i tre, ecco perché lì la chiave di tutto. Ascoltiamo i tre indizi, va? Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità che fa male, lo so. Pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza. Occhi neri, assoluti e sinceri. Nessuno mi può giudicare, Caterina Caselli, una carezza in un pugno, questo è il titolo, Adriano Celentano, Occhi neri, Fiorella Mannoia. Giampiero. Quindi sono sbagliato sempre. Aspetta che non ti sento più bene, pronto? Pronto? Eccoci qua. Dicevo, non mi viene altro in mente, quindi vuol dire che Caselli e Formigoni sono sbagliati. È una deduzione, diciamo, giusta. Sì, non sono, la risposta non è ancora arrivata, quella giusta. Va bene. Ciao Giampiero, grazie, che grazie, rabbia. Anche a te, Alfonso da Caserta. Ciao Stefano. Ciao Alfonso. Ciao. Diamo la allora, risposta. Mostra indecisione. Vuoi comunque un altro indizio? No. Sì, no. No, io voglio provare con... il calcio serrato dal tennista David Nalbandian, che volontariamente ha ferito un giudice di sedia alla finale del Queen's a Londra. Grazie Alfonso, buona domenica. Ciao, grazie. Ciro da Grosseto. Buongiorno. Ciao, io Ciro. Vorrei un altro indizio. Eccoci qua. Il quarto indizio arriva da Oleta Adams. To get away, take a holiday from a neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood, but I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Mi dispiace che devo tagliare questa straordinaria canzone cantata in questa versione da Rita Adams, che è New York State of Mind, ovvero pensiero newyorkese, diciamo così, per tradurla, uno stato d'animo newyorkese, quindi... Niente, mi veniva in mente qualcosa riguardo a un pugile, però non so... riguardo Muhammad Ali... Nello specifico. Che rabbia, Ciro. Ciao, buona domenica. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo 30 secondi, credo. E Giampiero da Varese. Ciao, sono Giampiero. Ciao, Giampiero. Allora, io l'ho avuto, visto che manca pochissimo tempo, una notizia che faceva riferimento a quel famoso pugile che adesso mi sfugge il nome in questo momento, che aveva anche morsicato un orecchio a un altro pugile, uh-huh. È stato invitato proprio a New York in questi giorni per raccontare un attimo un po' la sua vita, insomma. Giampiero, io non posso darti il premio, però. Mike Tyson, ma non è stato invitato da nessuna parte, nel senso che Tyson sarà protagonista di uno spettacolo teatrale a Broadway dove racconterà la sua vita, quindi non è un invito ma è proprio uno spettacolo di teatro. La risposta era troppo imprecisa, mi dispiace Giampiero. Vabbè. Grazie, che rabbia. Nessuno mi può giudicare, lo sapete, una carezza in un pugno, ovvio, occhi neri, perché lui si presenterà con un occhio cerchiato di nero in scena New York, perché Broadway è lì. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, in assistenza, Camilo Lauricella in regia, grazie a voi per l'ascolto, ci sentiamo domenica prossima. Buona settimana da Stefano Gallarini. Oh!